ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Era una radiosa giornata di prima estate, eppure mi sentivo il cuore oppresso. Separarmi, sia pure per breve tempo, mi è sempre risultato immensamente penoso. Sono un essere sedentario e viaggiare mi ha reso ogni volta infelice. I miei pensieri erano ancora nel vecchio chalet, che ora giaceva sprangato con le imposte chiuse nel sole mattutino. Una casa abbandonata e molto triste. Durante la salita mi trovavo in un regno di transizione, senza appartenere a un luogo preciso. Questa volta non avevo lasciato un biglietto sul tavolo, non mi era nemmeno passato per la mente. Raggiungemmo l'Alpe verso mezzogiorno e fui strappata ai miei cupi pensieri. Lynch attraversò il prato con un latrato giubilante e volò verso la capanna. Ricordava l'estate precedente e si sentì subito a casa sull'Alpe. Lasciai Bella e Toro al pascolo ed entrai nella capanna. Il mio disagio non scomparve nemmeno a quel punto, ma mi feci coraggio e dopo un breve riposo mi misi al lavoro. Andai a prendere i rami secchi nella stalla e lavai la polvere di un anno dal pavimento. I miei pensieri tornavano continuamente a Tigre e quando spalancai la porta dell'armadio, in un attimo di confusione, mi aspettai di trovarvi il gattino raggomitolato su se stesso nel sonno. Mi tremarono le ginocchia e fui costretta ad aggrapparmi all'armadio per superare quel momento di debolezza. Più tardi andai a sedere come stordita sulla panca davanti alla capanna, lo sguardo fisso davanti a me. Era ancora tutto lì, la botte dell'acqua piovana, il ceppo per spaccare la legna e la catasta di rami secchi, quasi ad attenderci per il nostro consueto gioco mattutino. Sapevo di non poter continuare così, ma sono sempre stata incapace di soffocare di colpo un dolore. Ogni volta ho dovuto aspettare che maturasse e compisse il suo ciclo, fin quando mi scivolava di dosso. Mi restava comunque il lavoro. Andai alla ricerca di sterpi e rami secchi e per tutto il pomeriggio trascinai una fascina dopo l'altra fino alla capanna, per sparpagliarle al sole ad asciugare. Le coperte e il pagliericcio li avevo già stesi sul prato a mezzogiorno. Non erano proprio umidi, avevano solo un leggero odore di muffa. Nel corso dell'inverno la neve doveva aver ricoperto la capanna fino al tetto. Questa volta mi ero portata una maggiore quantità di patate che stesi nella cameretta. Non esisteva alcuna probabilità di trovare altra farina, anche se in una delle capanne ne fosse rimasto qualche sacco, se non l'avevano divorata i topi, doveva essere andata male da tempo. Il terzo giorno sparai a un giovane cervo, sigillai la carne salata nei vasi di terracotta e li sotterrai nella neve in un avvallamento ombreggiato. Continuavo a sentirmi depressa, ma Bella e Toro erano contenti. Di tanto in tanto smettevano di brucare, trottavano fino alla capanna e infilavano le loro grosse teste attraverso la porta. Non venivano solo per devozione. Avevo preso l'abitudine di dar loro un po' di sale, che leccavano dalle mie mani. Solo il quinto giorno andai con Lince fino al punto panoramico. La regione era tutta una selva fiorita e verdeggiante. Riuscivo appena a distinguere il colore dei prati da quello dei campi. Ovunque aveva trionfato la gramigna. Già nel corso della prima estate aveva invaso le strade secondarie, ora perfino della grande strada asfaltata vedevo solo piccole isole scure. I semi avevano attecchito nei crepacci aperti dal gelo. Presto la strada non sarebbe più esistita. La vista dei campanili lontani questa volta mi emozionò appena. Attesi di essere aggredita dalla consueta ondata di tristezza e disperazione. Ma non ci fu. Ormai era come se vivessi nel bosco da 50 anni e i campanili per me non rappresentassero altro che costruzioni di pietre e mattoni, non mi riguardavano più. Mi sorpresi perfino a pensare che Bella dava ormai solo poco latte e che era una fortuna aver lasciato a valle la zangola. Mi alzai e ripresi il cammino, addentrandomi nel bosco col lince. La mia indifferenza mi atterriva. Qualcosa era mutato e dovevo adattarmi alla nuova realtà. Il pensiero mi metteva a disagio, un disagio al quale potevo sfuggire solo passandovi in mezzo per lasciarmelo alle spalle. Non dovevo tentare di mantenere artificiosamente in vita l'antico lutto. Le circostanze della mia vita precedente mi avevano spesso costretta a mentire. Ora, qualsiasi ragione o pretesto per una menzogna erano caduti. Non vivevo più tra gli uomini. All'inizio di giugno avevo finalmente ripreso dimestichezza con l'Alpe, sebbene nulla tornasse a essere come l'anno precedente. Quella prima estate sull'Alpe apparteneva irrimediabilmente al passato e non desideravo una ripetizione meno intensa e mi sforzavo di proposito per non soccombere di nuovo all'antico sortilegio. L'Alpe, d'altronde, mi aiutava, si era chiusa dinanzi a me e mi offriva un volto estraneo. Quell'anno, essendo venuto a mancare la produzione del burro e dello strutto, c'era meno lavoro. Bella dava poco latte e Toro doveva finalmente abituarsi a bere solo acqua. Il latte di Bella bastava appena al consumo quotidiano e avevo ripreso a montare quel poco burro con la frusta per le chiare d'uovo. Povera Bella, se non fosse presto accaduto un miracolo, non avrebbe mai più avuto un vitello. Spesso, come l'anno prima, sedevo sulla panca di casa a contemplare il prato. Non era diverso da allora, emanava lo stesso profumo soave. Eppure non provai più lo stesso rapimento. Segavo assiduamente i rami secchi e avevo molto tempo libero per andare nel bosco col lince. Ma non mi avventurai più in lunghe escursioni. Già durante l'estate precedente mi ero imposta dei confini. Dove passasse la parete mi era ormai indifferente e non avevo voglia di trovare altre 10 capanne di boscaioli andate in rovina appestate dal lezzo dei topi. Del resto le ortiche dovevano esservi ormai penetrate dalle crepe delle porte, invadendo rigogliose ogni fessura. Preferivo andarmene così senza meta per il bosco con lince, solo per il mio piacere. Mi avrebbe giovato di più che non restare seduta a oziare sulla panca per contemplare il prato. Camminare con passo regolare sui vecchi sentieri già mezzo invasi dalla vegetazione mi dava ogni volta un senso di pace e soprattutto era una gioia quotidiana per il cane. Per lui qualsiasi escursione era una grande avventura. Parlavo molto con Lince a quel tempo e lui capiva quasi tutto ciò che gli dicevo, o almeno ne capiva il senso. Chissà, forse afferrava più parole di quante pensassi. Quell'estate scordai completamente che Lince fosse un cane e io una persona. Lo sapevo, ma avevo perduto il suo significato discriminante. Anche Lince era cambiato. Da quando mi occupavo assiduamente di lui, si era fatto più tranquillo e non pareva più costantemente in ansia che potessi dissolvermi nel nulla non appena si allontanava 5 minuti. Oggi, ripensandoci, credo quella fosse l'unica grande paura della sua vita di cane, la paura di essere lasciato solo al mondo. Anche io avevo imparato molte cose sul suo conto e capivo quasi tutti i suoi movimenti e i suoi richiami. A quel punto tra noi regnava finalmente una muta intesa. Il 28 giugno, mentre verso sera tornavo col lince dal bosco, vidi Toro montare Bella. Quella notte non avevo fatto caso al mugghiare della vacca. Quando vidi le due robuste creature confondersi sullo sfondo rosato del cielo serale, credetti di sapere che questa volta sarebbe nato un vitello. Così doveva accadere, in un vasto prato, sotto il cielo della sera, senza l'intromissione di un essere umano. Ancora oggi non so con certezza se avessi ragione. Comunque fosse, da lì in avanti Bella cessò di chiedere Toro. E Toro si preoccupò solo di rimpensare il suo grosso corpo massiccio con erba tenera, di sonnecchiare al sole o di galoppare nel prato quasi stesse volando. Era un animale insolitamente bello e robusto, di indole mansueta. Ogni tanto, se gli grattavo la fronte, poggiava pesantemente la testa sulla mia spalla sbuffando di piacere. Forse più in là sarebbe diventato selvatico e scontroso. A quel tempo era solo un enorme vitello, fiducioso, giocherellone e sempre alla ricerca di cibo buono. Non credo fosse saggio come la madre, del resto essere saggio non era lo scopo della sua vita. Faceva ridere vederlo ubbidire perfino al lince, il quale al confronto sembrava solo un nano che latrava. Oggi penso che Bella avrà veramente un vitello. Dà più latte di quanto facesse in autunno e si è decisamente ingrossata. Se fosse così, il vitello, secondo il mio almanacco dell'agricoltore, dovrebbe nascere a fine marzo. Non si è ingrossata in modo vistoso, tuttavia troppo perché possa attribuirne la causa solo al buon fieno. Ancora 4 settimane fa non osavo sperare e tuttora nutro dei dubbi. Ma forse mi metto solo in mente delle cose perché le desidero ardentemente. Devo avere pazienza e aspettare. Allora, sull'Alpe, questa incertezza era molto più logorante. Per me era essenziale che Bella avesse un vitello. In caso contrario, tra non molto, essendo incapace di ucciderli, avrei dovuto affaticarmi per 2 animali completamente inutili. L'unica a non farsi la minima preoccupazione per il nostro avvenire era proprio Bella. Era un piacere osservarla. Aveva conservato il suo ruolo di guida. Se Toro si faceva troppo spavaldo, lei lo richiamava all'ordine con qualche cornata e il vitello ubbidiva, rinunciando ad allontanarsi troppo dalla sua sposa madre. Ciò mi tranquillizzava molto. Conoscevo il buonsenso di Bella e sapevo di potermene fidare. Il buonsenso permeava ogni parte del suo corpo e le dettava sempre la cosa giusta da fare. Lince, d'altra parte, detestava il ruolo del cane pastore e vi si adattava solo su mia espressa richiesta. Nel periodo che restava prima della finagione volevo riposarmi un poco. Ancora avvertivo distintamente le conseguenze della malattia. Mangiavo a sazietà, passavo molto tempo all'aria aperta e dormivo un sonno senza sogni. Il 1° luglio, è annotato sul calendario, riuscì finalmente a respirare di nuovo a pieni polmoni. L'ultimo impedimento era caduto e solo allora mi resi conto di quanto quel fiato asmatico mi avesse tormentato, sebbene non ci avessi fatto caso. Per un'ora mi parve di essere rinata. Poi non riuscii più a immaginare che fosse mai stato altrimenti. Tra poche settimane dovevo iniziare la falciatura del fieno e su quel ripido prato di montagna era essenziale che fossi in grado di respirare normalmente. Il 2 luglio scesi a valle per sarchiare il campo delle patate. Aveva piovuto e la gramigna era cresciuta più rigogliosa dell'estate precedente, che invece era stata asciutta. Lavorai tutta la mattina nel campo. In casa avevo trovato la consueta impronta sul letto, ma non sapevo a quando risalisse. Lisciai la coperta, imbottii lo zaino di patate e tornai sull'Alpe. A metà luglio intrapresi una seconda spedizione per controllare il prato accanto al ruscello. L'erba era alta e molto più grassa dell'anno prima. L'estate era variabile. I giorni caldi si alternavano alla pioggia in rapida successione. Era un tempo ideale per tutto ciò che doveva crescere e verdeggiare. Poiché mi restava ancora un po' di tempo, acchiappai 3 trote e le feci arrostire nello chalet. Avrei voluto lasciarne una per la gatta, sapevo però che, furba e sospettosa com'era, non avrebbe toccato nulla durante la mia assenza. Volevo attendere la luna crescente, che forse avrebbe portato tempo più stabile. Decisi inoltre di facilitarmi un poco il lavoro durante quell'estate. Dal momento che Bella aveva solo poco latte, bastava mungerla una volta al giorno. Potevo dunque pernottare nello chalet di caccia e incominciare a falciare ben riposata alle prime luci dell'alba. Alla fine di luglio tutto fu pronto. Munsi Bella e la rinchiusi nella stalla con Toro. Non furono affatto contenti, ma non potevo farci nulla. Lasciai loro una buona provvista d'acqua e di erba e scesi a valle con Lince. Raggiunsi lo chalet alle 8 di sera, consumai una cena fredda e mi coricai subito per sentirmi in forze la mattina seguente. Non possedendo più la sveglia, dovevo confidare nell'orologio che avevo nella testa. Immaginai a chiari e grandi caratteri la cifra 4 e, sicura di svegliarmi a quell'ora, mi addormentai. A quel tempo avevo già molta pratica in questo genere di cose. Mi svegliai già alle 3 perché la gatta saltò sul letto con un saluto festoso. Esitava tra effusioni affettuose e rimproveri queruli. Ero completamente sveglia, tuttavia rimasi ancora un po' di tempo stesa nel letto e la gatta si strusciò contro le mie gambe facendo le fusa. Per mezz'ora credo fummo entrambe soddisfatte della vita. Alle 3:30 mi alzai e alla luce del lume, di cui sentivo tanto la mancanza ogni sera sull'Alpe, preparai la colazione. La gatta si infilò sotto la coperta e seguitò a dormire. Le lasciai un poco di carne arrostita e, finita la mia colazione, dato da mangiare anche al lince, laggiù regnava ancora un'oscurità totale e faceva freddo. L'acqua scorreva dalle rocce in rivoli precipitosi subito riassorbiti dalla strada. Ero costretta a camminare lentamente per non incespicare nei sassi dilavati dall'ultimo nubifragio. La strada sembrava trovarsi in condizioni disastrose. Già durante la primavera le acque del disgelo avevano scavato profondi crepacci e dal lato del ruscello il terreno era in parte franato e caduto in acqua. Nel corso dell'autunno, prima che l'inverno potesse distruggerla completamente, dovevo riaccomodare la strada. Avrei dovuto farlo da tempo, ma era una fatica che avevo cercato di scansare. Non avevo scuse e mi stava bene se alla luce incerta dell'alba quasi mi rompevo le gambe. Raggiunto il prato, andai a prendere la falce nel fienile e incominciai ad affilarla. L'acqua gelida del ruscello scacciò l'ultimo sonno. Quando iniziai a falciare, faceva quasi giorno. La falce frusciava nell'erba, facendo ricadere al suolo i fasci umidi. Mi accorgevo chiaramente di quanto il riposo migliorasse la resa del lavoro. Falciai per circa 3 ore, poi però fui colta da una grande stanchezza. Lince sgusciò fuori dal fienile dove aveva dormito e tornò con me verso lo chalet. Mi infilai nel letto accanto alla gatta che, brontolando, si addossò al mio fianco e ripresi subito sonno. La porta di casa era spalancata e il sole illuminava la soglia con la sua luce gialla. Lince si era accomodato sulla panca di casa, appisolandosi al primo tepore. Mi svegliai a mezzogiorno, mangiai un boccone e tornai nel prato per rivoltare il fieno. Al mio ritorno la gatta se n'era andata e aveva divorato la carne. Era meglio così. Non volevo assistere alla sua delusione perché l'abbandonavo di nuovo. Raggiungemmo l'Alpe verso le 7 e andai subito alla stalla per liberare Bella e Toro. Legai Bella al piolo, lasciandola all'aperto per la notte. Poi mi lavai alla fontana, bevvi del latte caldo e mi coricai. Anche il giorno seguente munsi Bella al pomeriggio per rinchiuderla poi nella stalla con Toro. Pernottai nello chalet con la gatta addossata ai miei piedi. Avevo portato con me una bottiglia di latte e la gatta ringraziò facendo la gobba e dandomi dei piccoli buffetti con la testa. Al mattino falciai un altro grande tratto senza però tornare a coricarmi. Rivoltai invece per la seconda volta il fieno falciato il giorno prima. Era quasi secco ed esalava un lieve profumo dolciastro. Già quel pomeriggio fui in grado di trasportarne una parte nel fienile e di rivoltare l'erba falciata la mattina. Con questo nuovo ritmo di lavoro procedevo rapidamente. Il tempo si mantenne caldo e sereno per tutta la luna crescente. Questa volta avevo intenzione di falciare anche un prato adiacente, perché non volevo trovarmi di nuovo a corto di fieno. Ma appena terminato di mietere il grande prato, il tempo cambiò e, a parte qualche giorno di schiarita, piovve per una settimana. Era un tempo gradevole che faceva prosperare il prato dell'Alpe con rinnovata freschezza, ma non adatto alla fienagione. Aspettai dunque. La maggior parte del raccolto era al sicuro e non avevo da temere. Le mie gambe, del resto, erano di nuovo in cattive condizioni. Le avvolsi con delle pezze umide, distendendomi appena possibile anche di giorno. Sul principio Lince fu scontento della mia immobilità, ma quando gli ebbi mostrato le gambe malate, spiegandogli la situazione, sembrò infine convincersi. Gironzolava da solo nel prato, ma sempre a portata di voce. A quel tempo si divertiva a scavare buche per cacciare topi. Il tempo era cambiato al momento opportuno. Non riuscii a curare del tutto le mie gambe, che dopo quell'intervallo si ripresero comunque abbastanza da permettermi di continuare la fienagione. Il taglio del prato più piccolo si protrasse per una settimana. Questa volta la gatta accolse il mio ritorno con maggiore distacco, forse l'avevo un poco rassicurata. Probabilmente non ne aveva affatto bisogno, ma il solo pensiero bastò a tranquillizzarmi. L'estate era passata con singolare rapidità, non solo nel mio ricordo. So che pure allora mi sembrò molto breve. Quell'anno i cespugli di lamponi erano ancora più invasi dal sottobosco e trovai solo un secchio di frutti particolarmente grossi ma non molto dolci. Naturalmente io li trovai dolcissimi. Li lasciavo scivolare sulla lingua pensando a tutti i dolciumi del passato. Sorrido, pensando all'eroe di quel romanzo d'avventure che saccheggiava le arnie delle api selvatiche. Nel mio bosco non esistono api selvatiche e se ci fossero non oserei mai saccheggiarne le arnie. Al contrario, mi terrei molto alla larga. Io, d'altro canto, non sono un eroe e nemmeno un ragazzetto ingegnoso. Non imparerò mai a far sprizzare una scintilla da due bastoni, oppure a scovare una selce perché non saprei riconoscerla. Non sono neppure capace di aggiustare l'accendino di Ugo, sebbene possegga benzina e pietrine. Non so neppure mettere insieme una porta decente per la stalla della mucca. Ed è proprio questo pensiero che non smette di ronzarmi nella testa. Per tutto il resto di agosto rimasi sull'Alpe, sempre un poco impedita dalle mie gambe indolenzite. Avevo però ripreso le mie passeggiate con Lince, perché se restavo a oziare nel letto, troppi pensieri mi affollavano la mente. Già incominciavo a pensare con gioia al trasferimento, l'estate mi era parsa un semplice interludio. Il 10 settembre scesi ancora a valle per sarchiare il campo delle patate. Le piante erano particolarmente rigogliose. Anche i fagioli si erano riprodotti in abbondanza. I temporali erano stati pochi, senza tempeste e inondazioni. Quel giorno lasciai Bella e Toro al pascolo. Il bel tempo mi indusse a non privarle di quella giornata di sole. Raggiunsi l'Alpe verso le 5. All'improvviso, ancora non riuscivo a distinguere bene la capanna, Lince drizzò le orecchie e poi schizzò via sul prato, abbaiando furiosamente. Mai prima l'avevo udito abbaiare a quel modo, rancoroso e pieno d'odio. Compresi immediatamente che era successo qualcosa di terribile. Appena la capanna non mi ostacolò più la vista, lo vidi. Nel pascolo c'era un essere umano, un uomo sconosciuto, e davanti a lui giaceva Toro. Vidi che era morto, un enorme ammasso grigio bruno. Lince si lanciò contro l'uomo e cercò di azzannargli la gola. Lo richiamai con un fischio acuto e lui ubbidì, arrestandosi pieno d'astio e col pelo ritto davanti allo sconosciuto. Mi precipitai nella capanna e strappai il fucile dal chiodo. Ci vollero un paio di secondi, ma quei pochi secondi costarono la vita a Lince, perché non sapevo correre più in fretta. Mentre mi stavo lanciando sul prato, vidi balenare la scure e l'audii abbattersi con un suono cupo sul cranio di Lince. Presi la mira e premetti il grilletto, ma Lince era già morto. L'uomo lasciò cadere la scure e con un singolare movimento circolare si accosciò come su se stesso. Non gli prestai attenzione mentre mi inginocchiavo accanto a Lince. Non riuscivo a vedere la ferita. Solo dal naso gocciolava un po' di sangue. Toro era ridotto in uno stato orribile. Con il cranio sfondato da molti colpi, riposava in una pozza di sangue. Trasportai Lince alla capanna e lo stesi sulla panca. Era improvvisamente diventato piccolo e leggero. E allora, come da una distanza infinita, udii il mugito di Bella. Stava addossata contro la parete della stalla, fuori di sé dalla paura. La condussi nella stalla e tentai di tranquillizzarla. Solo allora mi ricordai dell'uomo. Sapevo che doveva essere morto. Un bersaglio tanto grande non avrei potuto mancarlo. Ero contenta che fosse morto. Mi sarebbe stato difficile uccidere un uomo ferito. E tantomeno avrei potuto lasciarlo in vita. O forse sì. Non so. Lo voltai, stendendolo sulla schiena. Era molto pesante. Non volevo nemmeno vederlo più da vicino. Aveva una brutta faccia. Gli abiti, sporchi e consunti, erano di stoffa costosa e confezionati da un buon sarto. Forse si trattava di qualcuno che, come Ugo, aveva affittato una riserva, oppure uno di quegli avvocati, direttori o industriali che anche Ugo aveva spesso invitato. Poco importa chi fosse. Ora era solo morto. Non volevo lasciarlo steso nel prato, non accanto a Toro morto e nell'erba innocente. Così lo afferrai per le gambe e lo trascinai fino allo spiazzo panoramico. Là, dove la roccia strapiomba nel ghiaione e in giugno fioriscono i rododendri, lo feci rotolare a valle. Toro lo lasciai steso dove giaceva, era troppo grosso e pesante. D'estate le sue ossa sbiancheranno al sole. Fiori ed erbe cresceranno attraverso il suo corpo e pian piano sprofonderà nella terra umida di pioggia. Per Lince scavai una sepoltura quella stessa sera, sotto al cespuglio dalle foglie profumate. Scavai una fossa profonda, deposi Lince, lo ricoprii di terra e poi di una pelliccia d'erba ben calcata nel suolo. E poi mi sentii stanca. Stanca come mai prima d'allora. Mi lavai alla fontana e andai nella stalla da Bella. Non diede una goccia di latte e continuava a tremare. Le diedi un secchio d'acqua, ma non beve. Allora andai a sedere sulla panca e attesi la lunga notte. Fu una notte chiara e stellata, col vento che scendeva freddo dalle rocce. Io ero più gelida del vento, ma non sentivo freddo. Bella incominciò di nuovo a muggire. Alla fine presi il mio pagliericcio e lo portai nella stalla. Mi distesi tutta vestita. Solo allora Bella tacque e credo si addormentò. Alla luce nascente dell'alba mi levai, preparai lo zaino, legandovi sopra anche un grosso fagotto, presi il fucile e con Bella abbandonai l'Alpe. La luna pendeva pallida e piatta nel cielo e i primi raggi dell'aurora tingevano le rocce. Bella camminava lentamente a testa china e ogni tanto si arrestava per guardare indietro con un sordo muggito. Tutto ciò di cui non avevo assolutamente bisogno si trovava ancora sull'Alpe. E non tornerò a prenderlo. O forse anche questo passerà e riuscirò di nuovo a mettervi piede. Condussi Bella nella sua vecchia stalla, la foraggiai e mi sistemai nello chalet. La notte venne la gatta e si stese accanto a me. Io caddi esausta in un sonno senza sogni. Il giorno seguente ripresi il mio lavoro abituale. Bella muggì per altri 2 giorni, poi si chetò. Fin quando il tempo rimase bello, la lasciai pascolare nella radura. Già il giorno dopo iniziai ad accomodare la strada, ci vollero 10 giorni. Venne ottobre, raccolsi le patate, i fagioli, la frutta. Poi vangai il campo e lo concimai. In primavera avevo segato tanta legna che sotto la veranda non era rimasto spazio per accatastarne dell'altra. Rimaneva da falciare lo strame, ma anche per questo ci volle solo una settimana. E infine, fisicamente stremata e affranta, rinunciai alla mia fuga insensata e affrontai i miei pensieri. Non ne ricavai nulla. Non capisco cosa sia successo. Ancora oggi mi chiedo perché l'uomo sconosciuto abbia ucciso Toro e Lince. Avevo richiamato Lince col mio fischio e gli toccò aspettare inerme che gli sfondassero il cranio. Vorrei capire perché quell'uomo sconosciuto ha ucciso le mie bestie. Non lo saprò mai. E forse è meglio così. In novembre, al sopraggiungere dell'inverno, decisi di scrivere questa cronaca. È stato un tentativo estremo. Non potevo sedere al tavolo tutto l'inverno con quest'unica domanda nella testa, alla quale nessun essere, proprio nessuno al mondo, può rispondere. Ho impiegato quasi 4 mesi a scrivere questa cronaca. Adesso sono molto calma. Vedo un pezzetto più in là. Vedo che questa non è ancora la fine. Tutto continua. Da questa mattina ho l'assoluta certezza che Bella avrà un vitello. E chissà, forse ci saranno altri gattini. Toro, Perla, Tigre e Lince non torneranno mai più. Eppure qualcosa di nuovo si sta avvicinando, qualcosa a cui non posso sottrarmi. Quando verrà il tempo senza fuoco e senza munizioni, me ne occuperò e cercherò una via d'uscita. Ma ora ho altro da fare. Appena farà più caldo, mi accingerò a trasformare la cameretta in una nuova stalla per Bella e riuscirò anche a spaccare il muro per ricavare il vano della porta. Non so come, ma certamente troverò una soluzione. Starò vicinissima a Bella e al nuovo vitellino e li sorveglierò giorno e notte. Il ricordo, il lutto e la paura mi seguiranno insieme al duro lavoro fin quando vivrò. Oggi, 25 febbraio, concludo la mia cronaca. Non mi è rimasto un foglio di carta. Ora sono quasi le 5 di sera ed è già tanto chiaro che riesco a scrivere senza il lume. Le cornacchie si sono levate in volo, volteggiano gracchiando sopra il bosco. Quando saranno scomparse, andrò nella radura a portare il cibo alla cornacchia bianca. Mi sta già aspettando. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.